so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente. Una questione di chimica, chimica, chimica, chimica. È una questione di chimica, chimica, chimica, chimica. E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente. Ripetutamente. E non mi importa del pudore, delle suore, me ne sbatto totalmente. E non mi fare la morale che alla fine sei che vuole solamente una questione di chimica, chimica, chimica, chimica. È una questione di chimica, chimica, chimica, chimica. È una questione di chimica, chimica, chimica, chimica. È una questione di chimica, chimica, chimica, chimica. E non c'è iodio pure zinco, è solo marmo, bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi servono a Ferrari, se non vali come fate a fare spenti. Ma no, non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti. È una questione di trovare quello giusto, quello che guardi per un po', solo un po', solo un po'. Il mondo fuori è un ricordo alla fine. Se ho gli occhi, nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia in casa.